Ok, questa è classe A remix Dead. Cani, se vi giro nel quartiere non funziona la vostra museruola. Oh, lasciateci il culo, non portiamo il vostro culo. Siamo contro il muso duro, ce n'è per tutti e per nessuno. Tu non la vuoi, fermarci, non puoi. Siamo bastardi, come cani sciolti. Aria, non respiriamo il tuo posto. Stai tranquillo, non ci agitare troppo. È pericoloso uscire quando il mare è mosso. E stronzo, cercavi lo scontro. Ma sei scappato, ti ritrovo in capo al mondo. Il mio cane è mezzo bracco e metà corso. Così prima ti trovi, tolta la zanna al collo. Tu non la puoi fermarci, non puoi. Siamo bastardi, come i cani sciolti. Siamo pieni d'odio in più la rabbia. Come cani che mordendo apriamo la tua gabbia. Come cani per la strada sciolti senza meta. Come cani bastardi miriamo la schiena. Come cani prendiamo quello che troviamo. Come cani rubiamo ciò che non abbiamo. Come cani facciamo quello che possiamo. Come cani è una giungla qua a Milano. Siamo cani. E hey, io cani, ci siete o no? Su ste mani canto. Bastardi, ci siete o no? Siete degli infanti, non messi giganti. Spettiamo fra tanti piccoli bastardi. Con visi frustranti, noi cuori pulsanti. Buttiamo i bastardi. Tu non puoi fermarci, non puoi. Siamo bastardi, come cani sciolti. Tu non puoi fermarci, non puoi. Siamo bastardi, come dei randagi. Questo è quello che facciamo quando è tardi. Nel club, alzate quelle mani, faccende da bastardi. Sono botte da petardi, dinamite. Non ci fermate, alzate che dite alla Biscardi. Abbiamo fatto il botto come al debutto. Adesso dacci tutto, i cani sono fuori. Mordiamo il vostro culo a Milano. Già che ci siamo, dacci pure il portafogli. Dimmi cosa c'è di strano. Tu non puoi fermarci, non puoi. Siamo bastardi, come cani sciolti.